Radio 24. Libera la voglia di fare. I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, sabato 7 gennaio, sono le 10:06, primi dagli studi di Sonatissima a Milano, sembra di stare a Ferragosto, beh con qualche grado in meno, ma meglio così. I compari dei conti della Belva tornano in diretta per voi e con voi, sperando che ci chiamiate all'800 24 00 24. So che molti sono ancora un po' pingui nella fase digestiva post feste. Sì, saranno imbefanati, caro ma Oscar. Ma per questo noi serviamo a riattivare i vostri succhi gastrici, per così dire. Allora, oltre a Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè è collegato con noi da una spiaggia alle Maldive. No, non è vero, sto scherzando. Il nostro Mario Seminerio. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Tu le hai passate, guarda, tutto si può dire di Mario, Carlo, tranne che le avrà passate mangiando, perché Mario è inappetente e quindi... No, vabbè, ma qualcosa ho fatto, devo dire che la mia parte l'ho fatta, ecco. Tutto ovviamente su scala, chiaramente, esatto. In medio stat virtus, ecco, sì, in dito medio soprattutto. No, ma... In dito medio stat virtus, di solito ti mangi gli ospiti della trasmissione, stavolta sei dedicato a cose più urbane, bravo Mario. Sì, ma ho ancora fame, stai tranquillo che ho ancora fame. Non avevamo dubbi, le belve sono affamate anche nel 2017, caro Oscar. Allora che ci mangiamo questa mattina? Oh, appunto, in questa puntata, cari ascoltatori, per indurvi a telefonare 800 24 00 24 e invece per i messaggi 349 238 6666, gli argomenti, abbiamo due grandi blocchi di argomenti, dopo aver sentito da Mario l'aggiornamento mercati e dati di queste due ultime settimane, inizieremo con il ministro Carlo Calenda, il ministro dello sviluppo economico, che all'inizio dell'anno ha movimentato, diciamo, il dibattito pubblico con una sua intervista, quella della sera, in cui si è posto un problema. Ha detto, scusate, il 2017 sarà evidentemente per Trump, ma non solo Trump, un anno in cui il protezionismo sulla scena economica internazionale aumenterà molto considerevolmente. La domanda diventa, e noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo esporci nudi con un liberismo ideologico o dobbiamo attrezzarci? Ecco, questa è la domanda. La risposta del ministro è: dobbiamo attrezzarci, come è ovvio. È una risposta che ha suscitato una bella onda di interventi a favore e contro. C'è chi ha detto subito Calenda premier, come Giulio Sapelli. C'è chi ha criticato dicendo, ma qui cosa si vuol fare, i rischi di tornare all'IRI, non all'IRI e così via. Noi ci siamo detti, chiediamo al ministro Carlo Calenda di stare con noi, e sarà con noi dalle 10:30 alle 11:00, e quindi questo è il primo argomento. Cari ascoltatori, c'è bisogno di una cintura a difesa dell'Italia con soldi pubblici per imprese e per banche? Questo è il tema di fondo, chiamateci e diteci la vostra. Poi in una seconda parte della trasmissione, tra le 11 e le 11:30, affrontiamo un altro problema, cioè è venuto il tempo, dice la politica italiana, lo hanno detto con interviste il ministro Martina e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini, che è tornato a occuparsi del programma per il PD in chiave renziana, hanno detto ora basta, bisogna assolutamente occuparsi in termini urgenti di quei 4 milioni e quasi e mezzo di italiani che sono sotto la fascia della povertà assoluta Istat. Quindi, siccome c'era un progetto del governo di estendere l'esperimento del SIA, del sostegno all'inclusione attiva, ora per decreto si faccia subito il reddito di inclusione. Le risorse variano, si va dal miliardo a cui era stato alzato il fondo per la povertà quest'anno, però Nannicini dice almeno 1,8 miliardi, l'Alleanza per la Povertà dice 7 miliardi, 7 miliardi sono tantini, non ci sono, ma insomma è per far capire che c'è chi dice è tempo di girare pagina, basta bonus e decontribuzioni per parecchi miliardi andati comunque a chi aveva un reddito abbastanza rilevante, insomma, fino a 28.000 euro si andava per il bonus 80 euro e comunque per dare un lavoro molto spesso con contratti non aggiuntivi a chi ce l'aveva già, cambiandogli contratto con la decontribuzione e tempo di occuparsi di povertà assoluta. Allora, questo reddito di inclusione non è il reddito di cittadinanza, ecco, vogliamo dirlo, ecco, non è, ve lo spiegheremo. E comunque pone qualche problema. Allora, noi abbiamo chiamato la relatrice in Parlamento del disegno di legge che è incagliato da un anno, questo per far capire che poi non è colpa del Nemiken. Sì, anche perché servono 6-7 miliardi, adesso, ecco, diciamolo, insomma. Comunque, tentiamo di riflettere su cosa bisogna fare, elevando cosa per aggiungere cosa, per esempio, per un intervento di cui fino a questo momento però anche col governo precedente non c'era traccia. Ora, oltre a questo, cari compari, cominciamo da Mario, aggiungiamo qualche pillolina oltre a questo. Che altro segnalare delle cose recenti? Mario. Allora, guarda, io due cose mi hanno colpito in questo, così, in questo iato di fine anno, natalizio, anno nuovo. Uno è che si è saputo che alcuni destinatari del famoso bonus diciottenni lo stanno monetizzando e quindi si è creato il cosiddetto mercato secondario anche del bonus da 500 euro per i diciottenni. Ma sei stupito? Ma leggeranno di meno, ma almeno hanno una cultura del mercato finanziario, cioè sono fatto secondary trading di una gentile concessione di Renzi. Però la cosa che mi ha colpito, adesso chiaramente sono solo evidenze aneddotiche, tra l'altro venivano da servizi giornalistici su Bari, il resto d'Italia non lo so, è che lo sconto su questo buono è di ben il 50%, cioè praticamente i titolari di questi 500 euro mettono in vendita addirittura al 50%, adesso non so se questo è frutto dell'equilibrio tra domanda e offerta, un forfeo, che cosa, gli interessati devono versare, devono fare una ricarica post-pay, dopodiché il beneficiario di questo buono procede all'acquisto di libri, ad esempio su Amazon, e li manda al destinatario. Allora, scusate, io ho letto molte reazioni sdegnate, però, cioè, scusate, ma diciamo le cose come stanno. L'uomo è un animale che reagisce agli incentivi economici, no? Questo è il famoso homo economicus. È inutile menare scandalo con la nostra cultura umanistica, qui voglio essere gratuitamente provocatore. Le persone reagiscono a incentivi e stimoli economici. Dopodiché, dove sta il problema? Intanto, vabbè, adesso aspettiamo che la Fondazione Einaudi metta in palio delle borse di studio anche per questi studenti, che però dovrebbero essere i docenti e non i beneficiari delle borse di studio. Io una borsa di studio le darei a chi ha deciso una misura così stupida. Mi sembra che mancasse. Diciamo che qui mancano le basi, esattamente di com'è il comportamento economico delle persone. Dopodiché è un movimento culturale di lunga lena, cioè quello di abituare le persone a leggere, ad approcciare i libri. Il consumo, la fruizione culturale non è una cosa che si crea per decreto o con delle mancette preelettorali, peraltro finite male da parte del governo di turno, per buttare dalla finestra denaro pubblico. Quindi mi pare che questa vicenda sia assolutamente esemplare di una cultura antieconomica da parte dei vertici, ma di una cultura spicciola, economica e molto razionale da parte della base. E scusate se è poco, per cui mi pare una bella lezione di realismo. Una bella lezione di realismo e di, diciamo, come si vede, sanno più comportarsi da homo economicus i giovani di quanto non si creda, Carlo Alberto. Poi vanno nelle tue grinfie a bolla bocconi e perdono la durlindana. No, anzi, infatti fanno il trading secondario delle merendine, ti ricordi? No, io sempre sul tema dei bonus, vediamo cosa ha fatto invece il bonus sugli insegnanti. Un altro effetto totalmente disastroso, sia nel disegno che nell'implementazione. Sappiamo che molte scuole hanno deciso di distribuirselo equamente, altre le hanno affidato all'80% dei docenti. Nel Lazio hanno preso il 47-48% dei docenti, cioè metà dei docenti sono eccellenti, il che vuol dire che il concetto di eccellenza è finito. È un segnale che la scuola non riesce a trovare un meccanismo intelligente per premiare il merito e per dare un segnale di giusto, come diceva giustamente Mario, di reazione agli incentivi economici. Probabilmente è l'occasione per ridiscutere discutere profondamente. Adesso che abbiamo un ministero in capo a una persona con grande non so come dire, esperienza sindacale, possiamo dire almeno quella. Fa ironia. No, io voglio sempre credere alle persone. Vediamo se col coraggio di chi viene da quel mondo si ha la voglia, l'intenzione di affrontare radicalmente il disegno della scuola, che è uno dei problemi grandi del paese. Noi produciamo, lo dico perché vedo l'output, produciamo ragazzi che non hanno la cultura del merito, anzi in un certo senso la combattono, e questo purtroppo lo vediamo, sta derivando direttamente dalla cultura degli insegnanti. Allora io aggiungo solo questo, brevissimi flash sulla scuola: non c'è solo l'autoderagliamento del primo esperimento del bonus di merito, come ricordava adesso Carlo Alberto, molto amaro perché i docenti dimostrano di non voler misurare e selezionare i migliori, mentre il mondo là fuori va avanti proprio così e sono quelli che devono giudicare i nostri figli. A questo si aggiunge il tragico segnale del ritorno al diritto per gli insegnanti di scegliersi la scuola vicino a casa, sì, venendo meno la regola dei 3 anni post assegnazione della riforma buona scuola. Si torna agli anni 70, per così dire. Aggiungo la idem, ma ancora più furore da parte mia, per scoprire che chi ha promosso e raccolto 3,5 milioni di firme per il quesito, quello dei 3 sul lavoro, su cui si pronuncia la Corte Costituzionale l'11 di gennaio, quello per abolire i voucher, bene, organizzazioni territoriali della CGIL utilizzano i voucher e dicono: ma senza voucher non c'è alternativa a pagare in nero. Bene, allora chiedete scusa a coloro a cui avete chiesto le firme, perché non gli avete detto questo ai banchetti, scusate. E dopodiché, perdonatemi, ma una terza cosa, e questa la butto lì perché richiederò a Carlo Alberto e a Mario Seminario, vedo che in queste settimane abbiamo scoperto che il mis-selling, cioè è una, non era diffuso, solo praticato ecco nelle 4 banche risolte o a Montepaschi di Siena. Devo dire che questa storia del pensare adesso ai rimborsi anche per i 4 fondi immobiliari piazzati da Poste negli anni 2005-2007, io dico no grazie, io voglio portare in tribunale quelli delle SGR. Repubblica ha tirato fuori la cosa, però ricordo a tutti quello che è giusto, che è stato Plus 24 del Gianfranco Ursino soprattutto a tirare fuori questa storia e tutti i particolari ci tornerà sopra. E la domanda è: meglio in tribunale o nuovi rimborsi di Stato? Ma ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed ecco la nostra sigletta rituale per la rubrica in cui il nostro Mario ci insegna e interpreta i dati recenti internazionali e italiani. Mario, ma io ieri ho letto un articolo di Marco Fortis, praticamente è finita la crisi, stiamo realizzando dei spettacolari risultati nel reddito disponibile, nella diminuzione del deficit pubblico, nella crescita, nel valore aggiunto. Sembrano le previsioni di Confindustria, ti ricordi un paio di anni fa, 2,8% di crescita. No, ragazzi, chiudiamola questa rubrica, nel senso che non c'è più la crisi, Mario, non ti pare? Allora, io ti stupirò, ma non ho trovato grandi elementi di dissenso nei confronti dell'editoriale di Fortis. È proprio per questo io ho trovato piuttosto, come dire, descrittivo della realtà e estremamente equilibrato. Oh. Per cui voglio, diciamo, spiazzare tutti. Voglio fare un piccolo inciso. Noi siamo una repubblica democratica fondata sul mis-selling. Attenzione. Bravo. Perché praticamente tutti piangono, tutti chiedono i rimborsi. Bravo. Qualcuno, qualche demagogo di transito ci marcia, del tipo rimborso integrale anche agli azionisti, che sono soci in capitale di rischio, ma va bene così, no? È presente, è la nostra matrice culturale, è presente come nelle partite di calcio all'oratorio, la partita continua finché la squadra che perde non ha pareggiato, esatto. Dopo che il prete fischia la fine della partita. Questa è la profonda matrice cattolica. Questa settimana c'è uno stupendo ritratto di Martin Lutero sull'Economist. Il protestantesimo ha vinto rispetto al cattolicesimo, almeno in Germania. Adesso buttiamo, visto che è l'anno nuovo, siamo tutti più buoni, è passata anche la Befana, buttiamo questo gigantesco sasso in piccionaia e ognuno rifletta e si sdegni come crede. No, ma guarda che è esattamente il tema che con Udo Gumpel poi volevo... Ma benissimo, non lo sapevo. Vabbè, ma come vedi, siamo qua insieme perché la testa, come vedi, stavo dicendo grandi menti funzionano allo stesso modo, nel mio caso la piccola, le grandi sono le vostre, però è così. Senti, no, per quanto riguarda i dati macro, allora io appunto non riesco ad essere così negativo, perché ieri abbiamo saputo che l'indice di fiducia economica di imprese e consumatori dell'Eurozona a dicembre era ai massimi da marzo 2011. Eh sì. E scusate se è poco. Eh sì, è così. Tutte le survey, tutti i sondaggi, diciamo, sulla produzione e quant'altro, gli indici dei direttori acquisti, sono intonati al rialzo. C'è una ripresa in corso, questo lo sapevamo. L'economia americana, come dimostra anche il mercato del lavoro nel mese di dicembre, è forte e vitale. Eh sì. Qui va tutto bene, diciamo, o quasi. Adesso voglio dire, l'unica incognita è capire cosa farà Mr. Trump dopo il 20 gennaio, se comincerà a colpire con i suoi executive order, cioè con iniziative che lui può prendere autonomamente fregandosene del Congresso e mettere dazi a destra a manca. Oh, però su questo, cari compari, a entrambi pongo un problema, perché diciamo qui nella squadra il più scettico sulle stroncature d'antan che per mesi erano riservate a Trump ero io. È chiaro che... Come eri tu? Qui l'altro trumpista della situazione sono Trump. Io. Però poniamoci il problema, sì. Poniamocelo seriamente. Fino a questo momento, nel cambio di segno, Mario, diciamocelo pure, delle aspettative rispetto a 2-3 mesi fa, dal punto di vista internazionale, cioè A, andamento commercio mondiale, B, effetto su commodities, il che significa minor problema per i paesi emergenti, perché da 2 anni e mezzo quello era ciò che determinava, insieme all'attesa degli aumenti di tassi di interesse Fed, il riorientamento dei flussi in fuga di capitale dagli emergenti verso gli Stati Uniti. Però il grande cambio nel senso di ritorno massiccio degli investimenti sul mercato americano, ritorno, aumento, perché ci sono sempre state, grazie a 20 punti di aliquota in meno IRES, e quindi reimpatrio di quei 2 trilioni di dollari delle multinazionali USA parcheggiate fuori, e quindi più investimenti USA, più consumi ancora USA con la disoccupazione che ha 4,7, più traino per il commercio mondiale, più import, e questo che ridetermina, per così dire, un forte rafforzamento delle attese internazionali, oltre al fatto che con Putin, lo sappiamo, lui non vuole le sanzioni, vuole nuovi rapporti e così via. Dall'altra parte c'è chi dice, ma no, questo signore vuole la guerra commerciale, non vedete che cosa fa con la Ford, con General Motors, con Toyota, bella tra l'altro la risposta di Toyota bella, ieri bella, nel sì. comunicatino, ci sarà la guerra commerciale. Io butto lì, credo che Ford invece che in Messico faccia negli Stati Uniti, perché uno, l'aliquota di 20 punti in meno se la stanno sudando e guadagnando così le grandi corporation americane. Poi vedere per credere che davvero mette i dazi. Il problema è che lui non crede nei trattati multilaterali e vuole rapporti bilaterali USA-Cina, a Russia, USA e così via. Brevissimo round di opinioni. Mario pensa davvero invece che metterà i dazi? Non lo so, perché il personaggio è molto umorale. È vero che tende, diciamo, ad essere un affarista, nel senso che lui prende la controparte. Per lui il mondo è fatto di controparti, esatto, prese sì. individualmente, ci si siede a un tavolo e si negozia. Potrebbe anche andare meglio rispetto a quanto stiamo temendo, però ha fatto uno squadrone, non di piccoli accoliti di provincia. Dei 3 generali, solo uno era in campagna elettorale con lui. Gli altri, il big oil man dell'Exxon, il signore che ha messo al Dipartimento di Stato al commercio estero e così via, sono tutti, quello della SEC di ieri ha lasciato a sorpresa tutti, sono tutti numero uno del loro ambito professionale, con una rete di relazioni pazzesca, cioè se paragonata all'amministrazione Obama. Questa è la mia impressione, non so che Roberto che pensa. Sì, il segnale che sta dando è un segnale comunque, nonostante l'attivismo di comunicazione che è francamente imbarazzante, dal punto di vista della sostanza sta dando un segnale chiaro a chi vuole investire, cioè sta dando un quadro molto più affidabile nonostante i proclami protezionisti. Quindi io la leggo come stai leggendo tu, e in effetti la stanno leggendo così un po' tutti i mercati. C'è l'incognita della Fed, però anche lì la politica monetaria americana dove vuole andare? Andrà un po' più in su, anche i segnali di disoccupazione sono questi, ma non può in questo momento improvvisamente fare un'accelerata dei tassi di interesse tale da sconvolgere il mercato. Sarà molto prudente, ma aspetta. E no? Poi in ogni caso, ma qui torniamo a Mario, visto che i giornali italiani si sono combattuti in 24 ore tra la deflazione invece e segno contrario, no? Per così dire, in poche ore. Rispetto alla Fed, comunque la BCE, siamo lì ancora a non sapere quanto conta dell'inflazione core o non core per indicare il drive vero della sua politica monetaria. Io penso che su questo ci vorrebbe una manutenzione fine della politica monetaria della BCE, non so come la pensi Mario, perché per esempio ritengo che quando si è riduce da anni di bassa crescita generale e c'è un cambio di tono invece, i CPI, cioè insomma i prezzi al consumo depurati dall'energia e dall'alimentare fresco, tuttavia bisognerebbe guardare anche il coefficiente di dispersione, perché altrimenti, siccome noi siamo a mercati separati con curve di costo separate, questo è il grande difetto dell'euro area, l'euro funziona poco per questo, secondo me non si bisogna guardare solo alla media, cioè che la Germania torni a 1,7 o 2 qualche cosa e noi siamo molto sotto, e beh, se si guarda la media molto trainata da chi è più forte, significherà che tra poco siamo tornati all'obiettivo BCE, ma questo significherebbe in cambio di riprese dei tassi anche da parte della BCE a aumentare l'effetto di crisi asimmetrica su chi sta peggio, e questo si riverbera sull'euro. Quindi se la politica della BCE non si tiene conto di questi criteri, commette un errore, secondo me. Però Oscar, un differenziale di inflazione va recuperato, noi l'abbiamo accumulato per 15 anni, allora in che maniera possiamo recuperarlo? Okay, se non ci siamo cullati. Ciò detto, è evidente che col debito che abbiamo è un differenziale sui tassi di interesse, invece ci penalizza. Però di chi è la colpa di aver accumulato? No, figurati. Quindi noi abbiamo bisogno di un differenziale più basso rispetto. Come la pensa Mario? Sentiamo. Allora, sono abbastanza d'accordo. Teniamo presente, allora, la BCE non ha ancora deciso se è interessata al tasso di inflazione headline, quello complessivo, o quello core. Esatto. Ricordiamo le bestialità fatte sotto il mandato di Jean-Claude Trichet, quando vennero aumentati i tassi solo per effetto dell'aumento del greggio che stava intorno ai $110-120. Quello mandò a gambe all'aria un tentativo di ripresa. Errore pagato. Esatto. E quindi attenzione a questo. Io, i miei due sense sono che Draghi, e non solo Draghi, spingerà per dire: guardiamo la dimensione core e non la headline. Allora, se guardiamo la core, l'inflazione in eurozona passa da 0,8 a 0,9 a dicembre, quella italiana da 0,4 a 0,6. Quindi i dati sono questi. I tedeschi sono giustamente nervosi perché hanno 1,7 di headline, ma soprattutto hanno un mercato del lavoro che è prossimo al pieno impiego. Per cui questo per loro aumenta il rischio di pressioni inflazionistiche vere. E tuttavia, che cosa serve per il riequilibrio in eurozona come da prescrizioni rigorosamente tedesche? Serve un differenziale di competitività indotto dalla variazione dei prezzi. Cioè, se l'Italia ha una inflazione e di conseguenza dovrebbe avere un costo del lavoro che sta crescendo meno di quello tedesco, l'Italia diventa più competitiva. Quindi dove sta il problema? Il problema sta nella reazione dei mercati. Avete visto che sui dati di inflazione, pronti via, lo spread si è allargato di 10 punti base. Esatto. Perché c'è una ripresa, come dicevamo prima, che sta coinvolgendo tutta l'eurozona, e questo è abbastanza oggettivo. Al di là del dato grezzo, quindi del dato headline di inflazione, è evidente che la pressione tedesca, ma di tutto il blocco dei paesi che stanno bene sulla BCE, per finire il QE a dicembre di quest'anno sarà fortissima. Ecco quindi che i mercati si portano avanti e penalizzano il BTP in termini relativi. Allora, ultima mia considerazione, che coinvolgerà il nostro ospite che avremo tra pochi minuti. Il nostro ospite ha detto nella famosa intervista: dobbiamo prenderci tutti i margini di flessibilità che ci consente non la Commissione europea ma i mercati. Questa per me è una enorme fallacia, perché vediamo che appena si crea il rischio che il QE venga ridotto o che la BCE smetta di puntellare l'economia italiana, i risultati in termini di mercato si vedono immediatamente con un aumento dello spread. Per cui attenzione alla fallacia, perché il giorno che la BCE stacca il piede dall'acceleratore, vedremo che i mercati non danno all'Italia una catena particolarmente lunga, ma di questo parleremo tra poco. Va bene, ed è questo il vero differenziale rispetto all'interpretazione dei dati, che lo ribadiamo ai nostri ascoltatori: per una volta i numeri sono numeri, non ci vedono difformi o distanti o diversi o a criticare rispetto a chi dice no, i segni della ripresa ci sono. Il problema è che anche in questa ripresa, attenzione, la coperta italiana è più corta di quella degli altri, in sintesi estrema, per motivi che hanno a che fare con il nostro gap, non colmato, con i nostri gap. Al plurale, torniamo tra un minuto con il ministro Carlo Calenda. Italia, l'Italia, conti della belva. Ed eccoci qui tornati con i compari dei conti della belva, Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè. È collegato al telefono, abbiamo anche Mario. Eccoci qua, eccoci. Mario è sempre con noi. Eccoci qua. Allora, io devo dirvi la verità, cari compari. Nei giorni delle feste, uno dei temi su cui più ho apprezzato gli sviluppi giornalistici, che sono sempre talvolta diversi dalla realtà, perché prendiamoci le nostre colpe come giornalisti, ma in questi giorni di festa è stato questo filone di temi e di dibattito, di interventi sollevato a seguito di due interviste rilasciate dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Premessa, io richiamo il mio conflitto di interesse. Carlo Calenda, come sa chi mi segue, io più volte mi trovo d'accordo, ho sostenuto quello che fa come ministro, ritengo che il suo apporto su Industria 4.0, sulla legge di bilancio 2017 e seguito, sia un bel segno di discontinuità rispetto a tante chiacchiere di prima, ma con meno interventi, oppure riconosco anche a Governo Renzi con interventi che erano il rifinanziamento di strumenti sia pur positivi come la legge Sabatini, il fondo piccole imprese eccetera. Qui c'è una visione nuova, ma detto questo io lo dichiaro, il mio conflitto di interesse, detto questo, due interviste in cui il ministro ha sollevato una serie di temi che sono, cari compari dei conti della belva, beh, fondamentali, perché prima intervista è quella che ha rilasciato il 28 di dicembre a Marco Zatterin, collega Marco Zatterin della Stampa, in cui ha lanciato il tema, ha detto scenario, il 2017 è un anno decisivo per sconfiggere i populismi e il problema è come si fa per sconfiggere i populismi, dove i populismi non sono gli avversari domestici in Italia, sono il fatto che si vota a marzo in Francia, si vota in Olanda, poi ci sarà il voto tedesco. Il rischio molto forte è di una catena a seguire di eventi dove l'effetto Brexit si moltiplica e si rilancia, protezionismo, autarchia, chi è più forte a diffondere i propri interessi nazionali, ci viene sempre in mente la Francia, vedete che cosa avviene in questi giorni di fronte all'ipotesi che Fincantieri prenda Saint-Nazaire, da un fallimento taiwanese, tra l'altro, che ci hanno provato ma non sono bravi perché non hanno ordini e competenza come Fincantieri. Ma detto questo, a quel punto Calenda, descritto questo scenario, dice beh, qui bisogna attrezzarsi, altrimenti ci consegniamo separati a strategie di altre che invece camminano coesi e che hanno un'idea chiara dei loro interessi, o comunque l'abbiano o meno, li perseguono. Questo è il fatto. Seconda intervista, poi, primo di gennaio, al Corriere della Sera, a Mario Sensini. Sviluppo del ragionamento, una rete di protezione per gli interessi nazionali, con esempi concreti, si comincia da Mediaset, che ovviamente è un tema sensibile perché significa rapporti tra centrosinistra, Berlusconi, le aziende di Berlusconi e così via, si prosegue con ragionamenti su Unicredit, c'è un aumento di capitale aperto, su Alitalia, cioè casi concreti, e Calenda dice qui bisogna che noi capiamo che avere grandi gruppi bancari privati da una parte e che stanno bene in piedi, Intesa e così via, dall'altra CDP, i governi l'hanno fatta intervenire e quindi CDP oramai ha un ruolo, fino a questo momento facciamo finta che sia solo di mercato per ogni singolo intervento, però forse si può pensare anche a una regia, a una strategia. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, su questo si è scatenato una ridda, è fine della mia introduzione, nel senso che c'è chi, come Giulio Sapelli, dicono facciamolo premier subito, esagerazione, ovviamente non si tratta di mettere in imbarazzo Calenda, ma sposiamo in pieno finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Dall'altra, ovviamente, noi liberali liberisti che diciamo no, un momento, iribis, grazie no, non ci rifate cose di questo genere, Carlo, proprio tu, Carlo Calenda, non puoi dire cose di questo genere. Io temo, fine della mia arringa iniziale per presentare il tema di cui parliamo, che nella realtà Carlo Calenda abbia sollevato un grande problema, come si vede proprio dalle reazioni. Però prima delle nostre obiezioni, consentiamo un minuto e mezzo al ministro Carlo Calenda, che ringraziamo di essere qui con noi anche perché c'ha un po' di influenza, ma consentiamogli all'inizio di dire, no scusate un secondo, invece di dare interpretazione ognuno come cavolo vuole, fate dire a me cosa ho davvero in testa, volevo fare l'iribis, sì, no, ecco, grazie a Calenda e intanto ci dica qual è il vero fine, così sono banditi ogni le cattive interpretazioni. Buongiorno. L'argomento è scivoloso, ovviamente, no? E il mio pensiero è molto semplice. L'Italia, per la struttura industriale che ha, vive bene nei mercati aperti, cioè vive in mercati aperti equilibrati dove può esportare. Noi siamo il quinto saldo commerciale di beni manifatturieri al mondo, abbiamo esportato l'anno scorso 414 miliardi di beni, cioè abbiamo una situazione, per dire, molto diversa da quella degli Stati Uniti, che hanno un enorme deficit commerciale. Quindi noi viviamo bene se i mercati sono aperti, se possiamo esportare, e viviamo bene se possiamo far venire investimenti dall'estero. Io ho sempre detto che per me un'impresa è italiana quando dà lavoro in Italia e investe in Italia, indipendentemente dalla proprietà, ok? Quindi questo è il mondo ideale per l'Italia. L'Italia prospera in questa tipologia di mondo. Prova ne sia che io ho fatto fare un'analisi, perché come solito nella vita poi valgono i numeri molto più delle opinioni, da Prometeia anni fa, sulle acquisizioni che erano state fatte di gruppi nel settore tessile e moda, e si vede con grande chiarezza che i gruppi che sono stati acquisiti italiani da gruppi stranieri crescono di più, investono di più e assumono di più rispetto ai comparabili dello stesso settore. Esatto. Quindi questo è il mio pensiero, okay, di base. Non ci vuole l'IRI, non ci vuole niente. In un sistema equilibrato, che deve essere equilibrato, di commercio e attrazione di investimenti, l'Italia prospera. E questo è il Calenda che ci è sempre piaciuto. Questo è il Calenda pensiero. Esatto. Però il mondo non è come ce lo immaginiamo, ma come diventa. E oggi noi siamo di fronte a un mondo che sta diventando una cosa differente. Perché sta diventando una cosa differente? Sta diventando una cosa differente perché abbiamo un prepotente ritorno del nazionalismo economico, a partire dal paese, diciamo, guida, se vogliamo, dell'Occidente, che sono gli Stati Uniti, che su questo è diciamo, stato molto chiaro anche nei primi tweet del presidente Trump. Abbiamo un mondo dove l'apertura dei mercati, il riequilibrio dei mercati internazionali dal punto di vista di commercio si è fermata, perché sono di fatto morti due grandi accordi commerciali negoziati dagli Stati Uniti, il TTIP e il TPP, ma anche perché l'Europa non ha più la forza di portare avanti e concludere accordi commerciali. E perché i fenomeni come quelli, per esempio, del dumping cinese continuano e l'Europa sembra molto disarmata rispetto a questi fenomeni. E questo è il fronte commercio. Dall'altro lato, il nazionalismo economico porta a un'altra conseguenza, che sempre di più succede che sistemi paese che sono più coesi, alcuni di mercato, altri non di mercato, come per esempio la stessa Cina, incominciano a fare acquisizioni massicce molto mirate strategicamente nei paesi, chiamiamoli così, aperti. Allora, questo scenario non si sa ancora come evolverà, perché è appena iniziato, però la riflessione che io ho fatto e che io ho posto è: attenzione, l'Italia, proprio perché è un paese che vive bene sui mercati aperti, quando può esportare, quando c'è un equilibrio, quello che abbiamo detto, si deve porre questo problema, perché ha strutture di sicurezza, mettiamola in questo modo, che sono molto più fragili degli altri paesi. E in questo contesto di relazioni economiche internazionali e politiche internazionali, perché le due cose vanno sempre insieme, più dure, più difficili, negative, cioè quindi che io non giudico positivamente, ma che sarà la realtà probabilmente del nuovo mondo che vivremo, dobbiamo tutti insieme porci il problema di come ci difendiamo quando ci troviamo davanti non a un'acquisizione di un'azienda italiana da parte di un'azienda straniera, il che di per sé stesso non è mai un male o un bene, dipende sempre da come funziona l'acquisizione, ma come ci poniamo quando sono sistemi paesi che si muovono in modo molto coordinato sia sul piano del commercio che sul piano degli investimenti, e lo fanno, diciamo, utilizzando l'apertura che oggi i paesi europei, in particolare l'Italia, hanno, e anche le fragilità che il paese ha, per scopi che sono scopi nazione, paese, non di una singola azienda che vuole ne comprare un'altra. Ecco, io credo che è un tema che vale la pena. Vale sicuramente la pena, Carlo, però dobbiamo articolare meglio questo pensiero, perché facciamo lo sforzo di seguirla in questo principio. I tedeschi sono oggettivamente un sistema paese importante, che va dal Fraunhofer alle banche, i francesi non abbiamo bisogno di descrivere, gli Stati Uniti lo stanno ridiventando per sforzo politico, la Cina lo è da almeno 20 anni, gli Stati Uniti lo sono, l'Inghilterra lo è stato almeno fino a giugno dell'anno scorso, almeno sulla finanza, adesso rischia il suicidio autoinflitto. Come fa a diventarlo l'Italia? Qui, Carlo, dobbiamo essere un po' più specifici, perché certo, è vero che ci può stare questo nuovo sforzo di coesione, non chiamiamola IRI, non chiamiamola Mediobanca, però abbiamo bisogno di chiederle uno sforzo di sintesi, perché questa, secondo me, è la sua intervista, se posso dire, da uomo di Stato, finalmente, che smette i panni del tecnico e comincia a fare un discorso politico. E questo, Carlo Alberto lo vuole mettere in imbarazzo, signor Ministro. No, lo voglio chiamare fuori, perché lo conosco e so che può dare di più di quelle poche parole che sono uscite. Quindi, qual è la sintesi a questo punto? Poniamo che lei abbia ragione, Carlo, poniamo che siamo disposti a seguirla su questo ragionamento, ma ci deve proporre la sintesi: banche, imprese, settori, lei ha parlato molto della meccanica, dell'industria, sappiamo quanto è attento su questo. Cosa vuol dire un paese più coeso dove industria privata, banche e, io dico, sistema pubblico regolatorio, non soldi pubblici, lavorano per la competitività del paese? Guardi, le faccio esempi perché sono cose differenti che vanno trattate in modo differente. Io l'ho spiegato un po' sull'intervista al Corriere della Sera. Allora, sul commercio per me vuol dire che il grado di intransigenza, per esempio, che noi abbiamo incominciato a portare in Europa, avendo qualche successo sul market economy status alla Cina o sugli strumenti di difesa commerciale, deve essere elevato. Perché se noi non siamo più intransigenti rispetto a comportamenti commerciali scorretti, noi abbiamo un effetto, quello che viene chiamato di trade diversion, cioè gli americani alzeranno molto i dazi per proteggersi. Il rischio è che tutto il dumping cinese finisca moltiplicato rispetto a quello che è successo fino adesso in Europa, quindi bisogna essere molto più intransigenti. L'Italia ha fatto una battaglia, come forse voi sapete, sia sul market economy status sia sugli strumenti di difesa commerciale, che in questo momento sono indirizzati meglio. Io poi voglio vedere il risultato. Sì. Primo punto, servirebbe anche un po' di tecnologia su quel punto, Carlo, perché se ci mettiamo a tracciare i prodotti, allora a questo punto anche politiche di freno commerciale e di identificazione sono più semplici, insomma, invece che soltanto blaterare in termini legali o commerciali, se posso. Questo è un tema. L'altro tema è che se noi mettiamo i dazi sull'acciaio, ma li mettiamo a un quinto di quelli americani, perché abbiamo una regola che si chiama lesser duty rule, che dice che non si sa per quale ragione noi dobbiamo mettere i dazi il più basso possibile anche di fronte a un comportamento scorretto, al di là della tracciabilità o meno, rischiamo di fare la figura di campanellini in mezzo a un mondo Questo è il primo punto. Commercio è il più semplice, va bene. Secondo punto, acquisizione di aziende, diciamo così, strategiche, molto pericoloso, perché la definizione di quello che è strategico e non strategico, lì si gioca tutta la partita. Allora io dico questo, il mio ragionamento parte da qui. Innanzitutto dipende da chi è la controparte, e con i francesi e i tedeschi noi abbiamo firmato una lettera, perché in Germania questo è un grande dibattito, perché c'è stato il tentativo di acquisizione di una grande azienda meccanica cinese, è andato a buon fine, che ha sviluppato un dibattito molto significativo, in cui diciamo i poteri di Golden Power su pezzi, diciamo, del sistema produttivo che sono molto legati alle tecnologie avanzate eccetera, devono essere ampliati. E ovviamente bisogna farlo in sede europea. Su questo abbiamo firmato con Francia e Germania una lettera e dobbiamo portarla avanti questo ragionamento, perché una cosa è che se tu hai un'acquisizione di un'economia pienamente di mercato, una cosa è se tu hai un'acquisizione di un'economia che non è pienamente di mercato. Ma questo Golden Power, Carlo, scusi, va in capo nazionale o in capo europeo? Questo è molto deve importante. Deve essere autorizzata la tipologia in capo europeo. Cioè tu non puoi dire me la scrivo come mi pare a me. Okay? Quindi la tipologia di Golden Power che puoi esercitare te lo deve dare l'Europa e te lo deve fare, diciamo, approvare l'Europa. Il modo in cui lo eserciti dipende anche da scelte nazionali. Okay. Però attenzione, questo quando tu hai a che fare con un'economia che non è un'economia pienamente di mercato. Terzo elemento, il caso Mediaset, così entriamo subito in media res. Il caso Mediaset, vorrei essere chiaro, l'ho detto 60 volte, ma così lo chiarisco meglio. Il punto qui non è preservare l'italianità di Mediaset purché sia, questo non è il tema. Il tema è che quello che è successo su Mediaset è che è stata messa in atto un'operazione, bisogna vedere se rispettando le regole di mercato o no, e lì lo definisce la Consob, eccetera, eccetera, ma che ha una sua opacità, perché una grande azienda che si occupa di un settore sensibile, non so, leviamo la parola strategico o meno, perché sennò rischiamo che poi strategico diventi tutto pure i panettoni, ma come si diceva una volta. Ma, o i cinepanettoni in questo caso. Esattamente. Quindi che però si occupa di un settore sensibile, perché è quello dei media, della cultura, eccetera, dove c'è una famiglia imprenditoriale che detiene una percentuale consistente, viene sostanzialmente fatto oggetto di una, tra virgolette, attacco, ovviamente lo parlo in termini di mercato, dove non è chiarita la ragione per cui questo si fa, cioè perché si fa, perché non si scatena un'OPA, ma si dice io voglio entrare lì dentro per condizionarne la governance. Ora questo è legittimo da un punto di vista di mercato, no? Però è anche molto preoccupante da un punto di vista di paese, perché tu hai una situazione in cui un'azienda comunque importante può o rischia di essere paralizzata. Allora rispetto a questo cosa fa il governo? Diversamente dai due casi precedenti, non cambia le regole di mercato, perché il governo non è che fa saltare le regole di mercato per la protezione di una singola azienda, perché è un modo sbagliato di affrontare le cose, ma esprime con forza, come abbiamo fatto, il suo parere negativo circa il modo e l'opacità con cui questo è stato portato avanti. Poi su questo rimanendo neutro sulle finalità, però Carlo, perché mi scusi che l'integrazione rimanendo totalmente neutro, ecco, è importante dirlo, cosa che forse non è stata chiarita. Sono stato sempre, scusi, guardi, lei prenda le mie dichiarazioni, no, lo so che sono stato sempre. Il mio punto non è come finirà la vicenda, ma è il modo in cui la vicenda si svolge. E aggiungo che c'è un tema, a mio avviso, di dignità nazionale, perché quella, questa si è configurata come di fatto una scorribanda, in un momento peraltro anche molto delicato del paese, ed esiste un galateo, secondo me, istituzionale, per cui quando si fa un investimento, ci si presenta in un paese, lo si fa in modo, come posso dire, appropriato. Detto questo, io sono stato contrarissimo a qualunque ragionamento in cui si è detto allora siccome loro fanno questo su Mediaset il governo deve entrare sul Telemo. Perfetto. Allora io non adesso siccome abbiamo tempi devo fare il disciplinatore, adesso abbiamo 60 secondi di traffico. Il punto è, quindi, levato il caso 3 è un caso di rispetto delle regole di mercato, ci pensa il regolatore eccetera eccetera. Ok. Ma i casi 1 e 2 pongono rispetto al track record, alle serie storiche, alle evidenze storiche del nostro paese, un problema, e quindi bisognerà chiarirlo. Perché faccio esempi concreti: noi abbiamo CDP che attraverso i suoi diversi eventi in questi anni è andato nel settore degli alberghi. Allora, sì. E gli alberghi per me sarebbero una priorità se dicessero: guarda, vi facciamo un piccolo esempio di come bisogna investire per aumentare la qualità dell'offerta, cosa che il sistema, come quello di tutta l'eccezione turistica, quella del turismo sulle spiagge, a cui invece noi proroghiamo un parco tematico integrato, allora, va bene. No? Ma invece così è una cosa come i vecchi cinepanettoni. Allora, siccome noi continuiamo ad avere infiniti purtroppo esempi di presenze delle partecipate pubbliche a livello locale, ma anche CDP in questi anni di questo tipo qua, vengono immediatamente i palpiti al cuore dicendo: no, cacchio, non potete adesso fare una cosa così. Allora la domanda poi diventerà: come si evita nel caso? Perché le intenzioni sono X, i risultati e l'evidenza pubblica sono Y, però traffico. Della belva. Allora, eccoci qui, tornati in diretta con noi il ministro Carlo Calenda. Stiamo parlando del tema che ha sollevato con queste due interviste, l'ultima quella del 1° gennaio al Corriere della Sera, una rete di protezione per gli interessi nazionali. Ci ha fatto esempi concreti. Mario, è venuto il tuo turno di fare una domanda al ministro. Mario. Ma più che una domanda è una constatazione. Allora, i principi generali del ministro sono ovviamente molto condivisibili. Per quanto riguarda, quando andiamo a calarci nella realtà, io vedo qualche difficoltà. Voglio dire, la reattività sul caso Mediaset è sotto gli occhi di tutti. Magari per il ministro questo è un bene, per altri può essere un bene. Io ho qualche perplessità, cioè serve galateo per evitare le scorribande. Purtroppo il capitalismo, questa brutta parola, si esprime anche mediante scorribande, no? Quando c'è un'azienda che appare debole e non in grado di reggere la competizione internazionale, di solito vale l'articolo 5, chi mette i soldi sul tavolo ha vinto. Chiedo scusa per questo ragionamento molto grossolano, però le cose stanno in questi termini. Ora vedremo come andrà a finire. Altro punto, sulla cassa depositi e prestiti, io ho letto soprattutto l'intervista al Corriere del ministro, ma ho letto anche il commento che ha fatto un osservatore acuto e certamente molto esperto come Franco De Benedetti, che ipotizzava una sorta di scatole cinesi 4.0, no? In maniera molto maliziosa, del tipo: abbiamo la CDP che non è il massimo né della patrimonializzazione né della liquidità, e questo credo che difficilmente possa essere smentito. Sono corti. Esatto, no, ma a parte ciò hanno degli investimenti ferocemente illiquidi, non riescono a muoversi più di tanto, in nessun caso possono puntellare il settore bancario. Allora che cosa accade? Creiamo delle società ad hoc di CDP come l'F2I o fondi simili, e li facciamo investire con le famose scatole cinesi, poco capitale, molta leva, per puntellare esattamente chi? Questa è la mia domanda, perché noi, è vero, siamo un grande paese manifatturiero, però questa è anche una tradizione di piccole e medie imprese, stranamente. Se io guardo, ovviamente non c'è responsabilità politica del ministro che all'epoca non era sulla scena, ma se io guardo quello che è successo nella storia italiana con il concetto di italianità o difesa dell'interesse nazionale, noi abbiamo distrutto valore. uno dei motivi per i quali il sistema paese che non si inventa è in condizioni così miserande è proprio la disfunzionalità del sistema paese medesimo, cioè questo non voler capire che arriva un momento in cui le aziende decotte vanno lasciate morire e quelle deboli devono essere assoggettate al rigore della concorrenza e della competizione. Sentiamo il ministro. Solo questa è la mia constatazione. Sentiamo il ministro. Ma io sono molto d'accordo, nel senso che uno, non, personalmente non sono d'accordo che il CDP entri negli alberghi, l'ha fatto, se avessi dovuto sceglierlo, deciderlo, io non l'avrei fatto, non penso che quello sia un caso di un interesse strategico, primo punto. Secondo punto, la questione è chi mette i soldi, ha perfettamente ragione chi mette i soldi, ma qui non è chi mette i soldi, qui è chi mette dei soldi per bloccare la governance di un'azienda che funziona. Allora, che l'operazione sia lecita dal punto di vista di mercato, ripeto, lo stabilirà la Consob, in linea generale probabilmente lo è, però non è che un'operazione lecita è un'operazione positiva, sono due cose diverse, e la politica si esprime e fa sentire e dice: guardate, io non voglio sapere l'esito lo determina il mercato, ci sono le regole di mercato, però non si può neanche mandare in blocco un'azienda importante, quindi è un ragionamento diverso. Quarto punto, io non rimpiango per nulla né Mediobanca né com'era, ancor meno com'è, né voglio sostituire i ruoli IRI, non ne parliamo proprio, sono perfettamente d'accordo, l'Italia è forte di medie imprese e di piccole imprese che devono diventare medie e lo devono fare, e il mio lavoro con il piano Industria 4.0, molte altre cose, è 90%, 99% su quello, ok? Quello è il lavoro che bisogna fare. E lo si fa mettendo a posto il sistema in particolare e cercando di premiare chi investe. Però c'è un tema qui, che è un tema importante. Cosa succede? Perché a questo non avete voi platea liberale, sì, io mi associo. Ipotetico, no, interlocutore liberale liberista. Esattamente, no, che è il tema. Cosa succede se paesi che sono molto articolati e usano le grandi aziende in un modo coordinato, e quindi in un modo che sì è di mercato, nel modo in cui si esplicita la loro azione, ma che ha dietro un ragionamento paese, che è un po' diverso, e anche un po' dirigista se vogliamo, incominciano a prendere pezzi molto significativi di alcune aziende italiane strategiche che operano in settori diversi, dalla finanza, alle assicurazioni, all'alta tecnologia, eccetera, eccetera. Perché io non ho paura, per essere molto chiaro, del fatto che ci siano grandi fondi di investimento nelle banche, che le banche diventino di fatto, gli azionisti delle banche diventino, passino dalle fondazioni a essere grandi fondi di investimento. Al contrario, penso che questo migliora la governance delle banche e probabilmente migliora il modo in cui lavorano. Quello che mi fa un po' più preoccupazione, e che è un tema che preoccupa un po' per tutto in Europa, cioè non è solo nostro, è cosa succede se grandi istituzioni finanziarie a un certo punto vengono assorbite da altre istituzioni finanziarie europee, internazionali, e il risparmio degli italiani incomincia a muoversi a finanziare investimenti o sviluppo industriale da altre parti. Ripeto, quando hai davanti sistemi paese che ragionano in modo, come posso dire, lievemente, mettiamola così, dirigista, ma comunque da sistema nazionale. Questo è il tema. Posso rapidamente fare tre esempietti rapidissimi per capire se il ministro è d'accordo? Voi capite che l'argomento è sdrucciolevole, molto, in particolare quando si deve andare a fare dei nomi. Ma io capisco, infatti, che lei deve parlare dei principi generali. Io faccio dei nomi, poi lei mi risponde sempre sui principi generali. Faccio un esempio. Unicredit. Allora, Unicredit arriva a Mustier, lancia un'operazione, secondo me sacrosanta, e meno male che lo fa in tempi rapidissimi, anche se non mi sfugge che stiamo smontando le presenze estere di Unicredit, che erano molto utili in una logica di sistema per l'Italia, e questo però, ohimè, lo dico per chi non ha saputo fare in tempo rapido decisioni sulla patrimonializzazione e il perimetro efficaci come quelle che spero saranno confermate dal successo dell'operazione, che complessivamente è di 20 miliardi, cui 13 di aumento di capitale. Lo dico sinceramente, in quel caso lo sappiamo tutti qual è il problema, perché abbiamo preso tempo, e poi alla fine Mustier deve levarci i pezzi esteri di Unicredit che erano utili per le imprese italiane all'estero. Si chiama eccessivo rispetto delle fondazioni proprietarie, perché per non farle diluire. In questo caso io dico meglio un Mustier, e meglio se nell'aumento di capitale viene anche un grande straniero piuttosto che il contrario, se è europeo ovviamente, io ragiono così, perché abbiamo degli errori nostri e quella era lui, è l'unica SIFI europea che abbiamo nel nostro sistema bancario. B, caso diverso, se improvvisamente arriva la Cina e si vuole comprare faccio un esempio solo, l'azienda, la quota italiana dell'azienda dei siluri, che però è dominante, dell'azienda che produce siluri all'interno di Leonardo Finmeccanica, non mi sfugge che c'è un problemino, visto che noi lì abbiamo un'eccellenza su particolari tipi di siluri medi e non è esattamente mercato privo di incidenza dei governi nelle scelte. Allora, in quel caso lo capisco, è come, però stiamo parlando, dico. Terzo caso, se invece mi trovo a dover vedere il criterio del ristoro pubblico diffondersi praticamente in tutti i casi di problemi bancari, diversi tra loro, le quattro banche di novembre erano risolte, MPS non è una banca risolta ma è una banca solvibile e che ha un intervento del capitale per evitare che finisca in coefficienti patrimoniali che non superano lo stress ma in circostanze negative. Vediamo quelli postali un altro criterio. Adesso mi arrivano i quattro fondi immobiliari postali, che è un problema in cui bisogna prendere i signori delle SGR e portarli in tribunale ed è anche una responsabilità diversa dai gestori, devo dire, eventualmente capire perché Poste dava al retail quelle robe lì, ma non il ristoro pubblico. Faccio questi tre esempi, signor Ministro, per far capire, ci dia indicazioni sull'ordine di grandezza di questi tre, senza fare nomi, ma su come la pensa. Guardi, io la penso in questo modo. Noi dobbiamo stare molto attenti a ovviamente costruire meccanismi di alterazione del mercato che fanno spendere un sacco di soldi allo Stato e sottraggono quindi soldi alla possibilità di abbassare banalmente le tasse sulle imprese e quindi okay. Far crescere le imprese. Poi. Ok, questa è la linea di principio. Sì. Dopodiché che succede? Sono situazioni, quelle che lei ha nominato, molto diverse. Quella di Unicredit, deve capitalizzarsi e lo sta facendo come fa un'azienda sul mercato, ha dentro fondi di investimento importanti, okay. Lo ripeto, 15 secondi. Quindi non lo considero un problema. Okay. I siluri sono un esempio talmente evidente al contrario che non vale la pena. Terza questione. Su MPS noi ci siamo mossi, come lei sa perfettamente, all'interno di una normativa europea molto stringente che si chiama precautionary recapitalization. Allora che abbiamo eseguito in modo... Mi considero al momento rassicurato, ma ne riparleremo intanto c'è la radio. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta, 6 primi, ecco, esattamente adesso con i compari qui in studio insieme a me c'è Carlo Alberto. Eccoci qua Carlo Alberto, Carlo Raffè. Mario c'è ancora? Sì, certo che c'è. Come no, eccolo. Eccoci qua. Sei soddisfatto della risposta di Calenda? Io? Parli con me? Sì, certo che parlo. No, non molto. Una domanda, se è soddisfatto la risposta di un politico, dai, è un gol a porta vuota. No, ma non molto, noto sicuramente, cioè, no, non sono soddisfatto, sorry, cioè, voglio dire, no, mi pare... Per questo te lo chiedo, figurati. Mi pare che tempi radiofonici e quant'altro, ma aspettiamo i fatti, perché io resto della mia idea, poi è ovvio che non si può parlare di singoli casi, o forse si parla... Ma se non ci sono i soldi non si può chiedere il bon ton, e la storia agli invasori stranieri e la storia di questo paese è ricca di distruzione di valore a mezzo di italianità. Io vorrei aggiungere una cosa. Vedi all'Italia. Ma non solo quello, Oscar, cioè il problema è che allora, il ministro dice dobbiamo essere in grado di reagire e gestire se un sistema paese esterno al nostro organizza frammenti di settori eccetera per di fatto andare a comprare all'estero. Ma scusate, se questi acquisti sono disfunzionali, cioè se distruggono valore, quel sistema paese nel lungo periodo, scusate il francesismo, non a caso, è fottuto. E se invece quegli acquisti sono sinergici, allora magari quel sistema paese crea valore. Allora la domanda da porci retrospettivamente e pro futuro per questo paese: l'Italia distrugge o crea valore quando si mette a fare sistema a difesa di aziende troppo deboli per la competizione internazionale o che sono decotte? Questa è una domanda retorica. No, non è una domanda retorica, è la domanda delle domande, perché la risposta a questa domanda è più delle volte la distrugge. Allora, a me piace del ministro, come dire, la proprietà lessicale e il fatto che certamente è un addetto ai lavori, non è un politico in senso stretto, ma è un ibrido. Allora io mi auguro che nei prossimi mesi e nel si futuro vedano fatti coerenti. Emerga più il tecnico di impronta liberale che non il politico che si nasconde dietro alle parole e ai temi, perché ma quello come sarebbe un problema oggettivamente. Ma come avrai capito, noi abbiamo lo stesso auspicio, anche se, attenzione, se mi fai una domanda, vuoi un'evoluzione politica in cui nella sinistra eccetera eccetera ci siano più Calenda o più CGL, io so qual è la mia risposta, non ho detto la tua, ma la mia preferisco a quel punto. Oh, naturalmente è una questione di graduazione di realismo, nel merito la penso come te, la distruzione di valore, però attenzione, la Francia ha tenuto in piedi con i soldi pubblici del contribuente esempi pazzeschi di valore distrutto o di cui è stata impedita la creazione. Il settore dell'auto francese per anni è rimasto indietro, non perché non aveva gente di qualità rispetto a quello tedesco, ma perché c'era lo Stato dentro e così via. La storia dei cantieri è questa, è collata all'Europa. Quindi il problema è che diventa difficile, perché c'è gente che ha una grande resistenza nel tenere in piedi i soldi pubblici che butta, mentre noi l'abbiamo finito il margine, e allora il problema diventa misurare chi l'ha finito, come giusto dici tu, in margine, piuttosto a chi invece per una ragione o per l'altra ne ha tanto, ma ne ha distrutto più di noi da questo punto di vista. Allora sentiamo le telefonate. Daniela da Vicenza. Daniela. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno ai suoi ospiti. Volevo chiedere una cosa facendo un piccolo escursus storico. Questo protezionismo che sembra prendere piedi, sì, che mi ricorda tanto il mercantilismo, a dire il vero, e che fu una dottrina economica per certi versi legata a quel tempo e sì, poi superata, le volevo chiedere se al giorno d'oggi il protezionismo può essere un ibrido, cioè si può creare un ibrido tra protezionismo e liberalismo in sinergia per il bene comune, per non distruggere quel poco che è rimasto? Daniela, guardi che in alcune fasi storiche è già avvenuto, gli esiti però sono inequivoci, cioè anche in Italia il protezionismo che abbiamo avuto per tutelare il primo ingresso nella rivoluzione industriale, cioè in parole povere un grande connubio tra grandi gruppi privati e banche per creare industria pesante di guerra, per capirci, certo, e la tariffa sui dazi sull'importazione per tutelare il fatto che i rendimenti del capitale fossero inferiori a quelli della Gran Bretagna nella produzione di quegli stessi beni, l'abbiamo già avuta. Anche in quel caso la fece la destra, il risultato fu che poi la sua protrazione e la grande economia di guerra della prima guerra mondiale portò l'Italia a dover salvare le banche che avevano le azioni di quelle stesse imprese, e abbiamo avuto il capitalismo di Stato per questo. Quindi la destra dovrebbe riflettere sui suoi errori. Sì, ricordiamo anche l'Italia, ricordiamo anche il protezionismo sulle linee aeree. Noi abbiamo una situazione della linea aerea che non può essere neanche venduta, perché non possiamo far superare il 51% a un socio extracomunitario e non riusciamo a trovare la quadra, non solo a livello italiano, ma a livello europeo. Pensi i benefici del protezionismo. Quindi con questa alleanza io spero di non perderla con gli stessi esiti, perché sennò sappiamo già come va a finire. Caro contribuente in ascolto, Rino, che ci chiama dalla provincia di Arezzo. Rino. Sì, buongiorno. Lei detto che chiama sul bonus insegnanti. Perfetto, io sono, diciamo, principalmente un professionista, però sono part time anche a scuola. Sì. E purtroppo, pur condividendo nei principi di base la meritocrazia, questo è stato un fallimento totale. Perché il bonus è andato, non c'è stato nessun criterio oggettivo, è andato, diciamo, ai cosiddetti insegnanti da corridoio. Ma che Rino, non le faccio classe. Una domanda, le faccio una domanda. Prego. Io difendevo il principio che nella buona scuola si introducesse questo principio, perché so che la maggior parte dei docenti e soprattutto dei sindacati è contraria. Io reputo, non so come la pensa lei, ma per questo le faccio la domanda, che l'errore sia stato non avere il coraggio di indicare i criteri dall'alto per escludere che fosse spalmato A, B e andasse a quelli che chiamano quelli di corridoio, e invece sia devoluto ai dirigenti scolastici e ai comitati di valutazione il fate un po' come volete negli esperimenti, e sono stati travolti. Ma lei è contrario al bonus di merito in sé o al criterio poco coraggioso del governo che ha finito per assecondare le tendenze peggiori? No, senza dubbio ai criteri, perché ecco, il fatto che io sono ormai 30 anni che sono nella scuola, volevo far notare una cosa banale: il fatto che l'insegnante che va a lezione sempre in classe è sempre aggiornato con quello che insegna, cosa fondamentale secondo me, perché ci sono persone che insegnano come 50 anni fa, chiusa parentesi, sì, non viene per nulla considerato. Oggi l'insegnante considerato qual è? Quello che partecipa a questi fantomatici corsi di aggiornamento organizzati da varie strutture che poi se non sono altro che tangenti dietro le quali si muovono i sindacati. Sì. E e basta. Quindi quello lì cosa succede? Perché le dicevo l'insegnante da corridoio, quello lì è quasi sempre assente, bisogna sostituirlo. Io che non manco mai, ma io come il 95% dei colleghi, si ha ben inteso, ci troviamo becchi e bastonati. Becchi e bastonati. Nessuno viene mai in classe a me a vedere cosa faccio. Vede che io potrei andare in classe. Vede che, la questione, quando l'andazzo è di un certo tipo, c'è bisogno, perché le riforme funzionano, non solo che siano annunciate bene, ma che l'implementazione, l'attuazione, i criteri siano ferreamente indicati e giustificati. Poi ci sarà l'esplosione della reazione, che invece in questo caso il PD evita, perché dice l'esperimento non ha funzionato. Ma invece, se ci credevano davvero al merito, dovevano prendere uno dei tanti esempi in cui il merito, primo, lo si fa valutare da terzi e non tramite autovalutazione, come succede ancora per i dirigenti, punto numero uno. Secondo, lo si fa con criteri per cui diventano davvero le migliori pratiche, non oltre il 10%, da prendere e additare come esempio. E invece questa volta il passo indietro non si fa per la mancanza di questo coraggio. Sentiamo Lucia, che ci chiama dalla provincia di Monza, Brianza, sempre credo per un accenno sulla scuola che abbiamo avuto. Su cosa? Sui bonus 500 euro per i diciottenni, no? Sì, esatto. Buongiorno, allora innanzitutto è un piacere parlare con voi, chiaramente non faccio un commento dal punto di vista economico perché ne ho completamente la capacità, ma dal punto di vista culturale. Ho sentito per le strade ragazzi che spendevano dicendo ma tanto tu compri ci puntini e puntini perché tanto paga Renzi, per cui il concetto culturale di arricchire col bonus ai ragazzi decisamente non l'ha convinta. Esatto, ma io su questo la faccio corrispondere a Carlo Alberto Carnevale Maffei, che è stato un entusiasta difensore invece della modalità, quantomeno, con cui è stato dato quel bonus. Sì, la modalità era intelligente, la finalità era, la vediamo, insomma, era del tutto distorta. Pensare di finanziare la cultura dei ragazzi contro la loro volontà è semplicemente privo di senso. L'effetto che abbiamo avuto è quello di una distorsione. Vero, verissimo, ho visto anche qualche altro sms qua che ci sta arrivando dicendo un mio amico insegnante ha preso i bonus per la cultura degli insegnanti e ci ha comprato un iPad per la moglie dicendo io i computer non li voglio nemmeno vedere. Questi sono i risultati, purtroppo, caro Oscar. Quindi grazie ai nostri ascoltatori, che però, come vedi, ci sono dei testimoni e dei sensori nel paese reale che in realtà la pensano in maniera diversa da come vengono dipinti. Cioè, perché poi io mi rendo conto, anche tante volte scrivendo, il rischio sbagliato di dipingere chi lavora nella scuola come se fosse questa massa indifferenziata di menefreghisti che pensano soprattutto. Non è così, è strapieno di gente che davvero sogna di avere degli interventi che rompono questo quadro di fondo. Il problema è che se sono malfatti rafforzano esattamente chi invece fa l'insegnante di corridoio, per capirci, come ci diceva Rino, e questo mi amareggia tantissimo. Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo di occuparci nei prossimi minuti di un problema tragicamente serio, perché una cosa, io l'ho sempre ripetuta, mi ha lasciata perplessa negli interventi in questi anni dei governi PD, è stata quella di dedicare molte risorse, pensate che solo la decontribuzione stiamo parlando di 17-18 miliardi, i bonus 80 euro stiamo parlando di un'altra sberla da 10 miliardi e così via, nella piramide dei redditi italiana, parti della società italiana, che sicuramente io mica la descrivo come il benessere eccetera, però insomma gente che un reddito, un lavoro ce l'ha. Invece per la parte bassissima, cioè per la parte di chi sta sotto la povertà assoluta, stiamo parlando di un numero di soggetti triplicati dal 2007. Oggi stiamo parlando, secondo la valutazione ISTAT, fino a 4 milioni e mezzo di persone. Dei veri perdenti di questa crisi, sicuramente. Allora, lì, con qualche sforzo, qualche centinaio di milioni, e l'esperimento sia il sostegno all'inclusione attiva con 650-700 milioni, identificato come nel 2016 come ponte verso questa misura che adesso la politica e il PD per primo, dopo la botta del referendum, tentano di dire facciamola subito per decreto, cioè estendere l'esperimento del sostegno dell'inclusione attiva a una vera e propria forma di reddito di inclusione. Approfittando del fatto che il fondo per la povertà passa da 750 a 1 miliardo di euro in quest'anno, e dice Nannicini, che insieme al ministro Martina è uno di quelli che essendo tornato al partito Nannicini, e comunque Martina essendo nella parte del governo Gentiloni, di chi dice accelera, accelera, accelera, ecco, entrambi dicono ci vuole un decreto, bisogna farlo subito, e Nannicini dice la realtà è che di risorse si può arrivarne a mobilitare fino a 1.800.000.000. È come se la politica, e soprattutto mi dispiace dirlo, la sinistra, da cui mi aspettavo interventi su questo, capisse che ha perso molto tempo e concentrato molte risorse altrove, con effetti discutibili, perché a volte si possono fare, caro Carlo Alberto e caro Mario, allocazione di risorse gigantesche, dicendo perché da questo ne scaturirà un effetto moltiplicatore. E lì non c'è stato, per così dire, non c'è stato né nei consumi con gli 80 euro e con la decontribuzione avete visto che la droga degli incentivi a tutti, che cosa porta. Qui invece siamo in presenza di un problema diverso e la questione è come farlo, per così dire. Descrivervi tutte le tecnicalità del SIA è complesso, per così dire, perché stiamo parlando di un intervento che è partito nelle grandi città, che identificando una soglia di ISEE naturalmente diversa, povertà assoluta, stiamo dicendo ovviamente coefficienti diversi, perché lì si attribuirà diversamente da regione a regione, stiamo parlando di chi non ha i soldi minimi per vivere dignitosamente, questo dipende da regione a regione per l'effetto dell'andamento dei prezzi, dipende dalla numerosità della famiglia, eccetera eccetera. Il SIA ha due parti, ha due pilastri, una parte che è tramite il sostegno al reddito, e questo segno di povertà va da un membro 80 euro fino a 4 membri 320 euro, quindi stiamo parlando di una cosa che anche a sviluppo sarà di 400-500 euro, questo come ordine di grandezza, e poi c'è una parte di inclusione attiva che è un percorso di avviamento al lavoro, eccetera eccetera, per così dire. La questione è se questo sia un sistema giusto, A, B, in come pensare e se debba subentrare a quel punto ad altri tipi di assistenza, reddito sia locale che centrali, C, in realtà quali sono davvero le risorse allocabili per tentare di incidere davvero in un bacino che l'Istat ci certifica arrivare a 4 milioni e mezzo di persone. Allora, su queste questioni di fondo abbiamo scelto di sentire l'opinione di chi se ne occupa davvero, di chi se ne occupa, cioè da una parte abbiamo con noi l'ideatore della proposta del reddito di inclusione sociale e che ha messo in piedi in questi anni l'Alleanza contro la povertà in Italia, cioè un grande patto di alleanza di 35 soggetti diversi per battersi contro la povertà in Italia. Insegna politica sociale all'Università Cattolica, Cristiano Gori, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Dall'altra, per capire come e perché però, per esempio, la delega per questo è ferma da un anno in Parlamento, e se bisogna andare avanti sulla delega o fare un decreto legge, come dicono Martina, Ministro, e Nannicini, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, come a dire Gentiloni, guarda che in Parlamento non ce la fai, quindi se ci credi davvero fai un decreto e trova risorse aggiuntive, appunto chi invece è relatrice al Senato sul disegno di legge a delega sulla povertà ed è capogruppo nel PD nella Commissione Lavoro, la senatrice Anna Maria Parente, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Senatrice, posso cominciare con lei? Lei innanzitutto dice meglio andare avanti col disegno di legge, malgrado il ritardo, oppure se vogliamo fare il cambio di passo, l'esperienza ci insegna che hanno ragione Martina e Nannicini, ma dico Nannicini perché indica anche il 1.800.000.000, non solo il decreto, cioè si possono anche aggiungere risorse in più. Lei come la pensa? Allora, intanto il disegno di legge che abbiamo in Parlamento è un disegno di legge delega. Sì. Noi potremmo scegliere alcune strade. La prima è trasformare questa delega in un dispositivo immediato e quindi, come sappiamo, la delega ha bisogno di decreti attuativi e quindi fare subito una disposizione legislativa. E il secondo, dice il governo, può essere un altro decreto. Adesso in questi giorni vedremo come accelerare. L'obiettivo è accelerare. Vediamo qual è la strada migliore. Ci sono delle parti diverse nella delega, la parte importante è quella che istituisce il reddito di inclusione, come dicevate prima, e l'altra, per esempio, c'è tutto il tema del riordino delle misure di assistenza. Esatto, che è fondamentale. Si potrebbe, lei mi chiede come la penso, sì. Si potrebbe appunto trasformare in un dispositivo immediatamente attuativo il pezzo del reddito di inclusione e magari lasciare la delega, che è competenza diciamo di un esecutivo, al riordino delle misure di assistenza, quest'altro pezzo della legge. Naturalmente in questi giorni avremo incontri con tra le forze di maggioranza in Parlamento e il governo per decidere qual è la strada migliore. Lei sull'entità delle risorse, vista, per così dire, io ci vedo un elemento di autocritica negli ex esponenti del governo Renzi che dicono oltre il miliardo, perché sappiamo che poi nelle voci di attribuzione delle risorse della legge di bilancio c'è stato anche un mezzo miliardo che è slittato nel 2018. Ma lei, siccome si occupa del dossier da tempo, sì, concretamente pensa che a quanto si possa davvero arrivare per il 2017? Allora, intanto un chiarimento, queste risorse sono già allocate nella stabilità dell'altro anno, del 2016, verissimo, che dava 600 milioni, esatto, al 2016 e 1 miliardo al 2017. Quei 600 milioni sono stati impiegati una parte per la sperimentazione del SIA che lei molto opportunamente prima ricordava. Quindi non si è fatto nulla, si è già cominciato e come lei diceva giustamente il SIA è una misura ponte, sì, rispetto a quella definitiva. Sì. Sì. Sul miliardo lei ha centrato un altro aspetto fondamentale che è quello del rapporto tra centrale e locale, perché non è vero che in Italia non ci sono state finora misure di contrasto alla povertà, esatto, ci sono state misure, risorse allocate regionali e comunali. La novità di questo disegno di legge è che per la prima volta si istituisce una misura nazionale, cioè che vale su tutto il territorio nazionale. Quindi legiferando su questa materia noi decidiamo che nessun cittadino italiano dalla Campania all'Emilia-Romagna, al Piemonte, possa andare al di sotto di una soglia di povertà assoluta, come sempre lei ricordava, e quindi la novità è questa. Questo non significa che questa misura nazionale non si vada a inserire già in tutte le risorse che ci sono a livello locale e regionale. No, no, questo diventa da una parte una rete di garanzia, cioè non può capitare che per evidenze di finanza locale da qualche parte d'Italia ci sia qualcuno non coperto da niente. Dall'altra pone il problema del coordinamento delle risorse, perché bisogna evitare poi che ci siano difformità locali e anche cattiva allocazione delle risorse, perché gli interventi sono di tipo diverso. E in questo in realtà l'intervento decreto subito e delega per il coordinamento a me sembrerebbe ragionevole, però vediamo come pensa la politica. Cosa dice invece, ecco, Cristiano Gori e soprattutto l'alleanza? Infatti, se non ti spiace, voglio chiedere a Gori, sì, tre cose. Primo, la finalità. Secondo, i sistemi di monitoraggio e valutazione. Terzo, dove stiamo? Le risorse. Perché la grande alleanza parla di 7 miliardi. Sì, esatto, di 7 miliardi, non di 1,5 come dice Nannicini. Allora, finalità, provocazione. Reddito di che cosa esattamente? Per capire bene la differenza fra il modello reddito di cittadinanza M5S, cioè soldi per tutti, e il concetto di inclusione. Io propongo, provocatoriamente, di chiamarlo prestito fiscale da restituire in cambio di comportamenti di volontaria inclusione o reinclusione sociale. Primo punto, quindi precisare meglio le finalità. Secondo, monitoraggio e valutazione. Sono purtroppo molto critico su quelle tre paginette che avete scritto sui sistemi di controllo. Non avete incluso tecnologie, sistemi di pagamento digitale o non in maniera esplicita, e sistemi di monitoraggio non sono coordinati con meccanismi di premio e punizione coerenti con gli obiettivi. Terzo punto, le risorse. È l'occasione per ripulire altre modalità di welfare inefficienti e convogliare tutto qui sopra, oppure è una spesa aggiuntiva? Sentiamo Gori. Allora, impegnativo il pacchetto di domande. Intanto io sono il coordinatore scientifico dell'Alleanza, ma questa proposta è stata costruita da tanti studiosi insieme, sì, con le associazioni. Corretto dirlo. Tante teste ci sono. La forza dell'Alleanza è questa, che per la prima volta c'è un pacchetto, esatto, che tiene insieme la maggior parte delle associazioni sociali, sindacati, comuni e regioni. Allora, prima domanda, la finalità. Intanto chiariamo la differenza con la proposta del 5 Stelle. 5 Stelle propone una misura che non va a tutta la popolazione, va a coloro i quali sono a rischio di povertà, che vengono stimati dal Movimento 5 Stelle, usando dati Eurostat, nel 14,5% degli individui. Quindi 5 Stelle pensa a una misura per il 14,5%. Noi pensiamo a una misura per il 7,6%, cioè per quelli che sono in povertà assoluta. Ok? Però noi ci siamo confrontati molto col 5 Stelle, perché l'Alleanza parla con tutti a partire dai contenuti. E in realtà, anche loro di fatto sono d'accordo che ci voglia una misura contro la povertà assoluta. Semplicemente loro allargano il target non solo ai poveri assoluti, ma anche a coloro i quali sono a rischio di povertà. Mentre secondo noi per il rischio di povertà bisogna trovare altre misure. Però questo è un punto che bisogna far passare. Sulla povertà assoluta siamo tutti d'accordo. Benissimo, quindi stiamo parlando di circa la metà del perimetro identificato dal Movimento 5 Stelle e parliamo quindi di povertà assoluta, quello che viene definito col criterio internazionale, quella che è effettivamente triplicata, quadruplicata negli ultimi anni. Bene, okay, ma la finalità qual è? Sì. La finalità è duplice. Da una parte è garantire a tutti, come dire, di poter campare in maniera decente. Dall'altra parte è mettere chiunque possa nelle condizioni di riprogettare il proprio percorso di vita. Bene. E questo non è solo formazione, perché ormai esatto. La povertà è talmente trasversale che, non so, adesso c'è tutto uno sviluppo dei corsi di educazione finanziaria per le persone che magari consumano troppo rispetto a quello che hanno, c'è tutto il problema delle dipendenze da gioco, il problema delle famiglie in difficoltà, cioè è molto ampio. E qui sì, e chiaramente c'è un asse diritti-doveri, questo è fondamentale. Cioè, io, se divento povero cristiano, ho il diritto ad essere sostenuto e ho il dovere di fare ogni sforzo per reintegrarmi al meglio nella società. Questo è fondamentale. È proprio su questi doveri che però io non ho visto una lucidità e un meccanismo di monitoraggio e valutazione efficace, caro Gori. Quindi ci spiace spiegarci bene cosa ha previsto in questa parte. Allora, intanto lei arriviamo al secondo punto, monitoraggio. È un punto su quale noi abbiamo insistito molto. Probabilmente vi abbiamo mandato un documento di sintesi, ma noi abbiamo, come dire, elaborato un'ampissima proposta che adesso è anche in un volume del Mulino, che insomma è stato fatto circolare tra i decisori, eccetera. Quindi questo punto. La sua osservazione, secondo me, è cruciale, perché in realtà sul fatto che ci voglia una misura a sostegno di tutti i poveri assoluti e che debba essere costruita su un mix diritti e doveri, sostanzialmente chiunque è d'accordo nel dibattito politico, in linea generale. Poi c'è il problema dei soldi, ma c'è un problema fondamentale, che è quello di come tradurla in pratica. Esatto. Questo è il nodo. Perché quindi, sa com'è, noi abbiamo visto che nell'esperienza la realtà è dalla pubblica amministrazione italiana tende sulla questione dei doveri ad aggirarla. Perdoni, ma è così. Anche nel bonus di valutazione di cui parlavamo prima dei docenti, alla fine è stato così. E non ci sono meccanismi di premio e punizione. E non essendoci meccanismi di raccolta informativa efficienti, e a me sinceramente le ipotesi di fare questionari a doppia ondata lasciano un pochino stupefatto. Comunque, il problema è che loro dicono che ce l'hanno, le guarderemo, Carlo Alberto. Oscar, io guardate. Poi ovviamente possiamo sempre migliorare, cioè la nostra impostazione, ma anzi siamo. Però, come dire, secondo me ci sono due livelli di diritti e doveri. Uno è riguardo alle amministrazioni locali. Le amministrazioni locali vanno messe nelle condizioni di operare bene, quindi risorse, formazione, accompagnamento, e poi vanno sanzionate se non lo fanno, uno. Fino ad arrivare a poteri sostitutivi nei casi più gravi. Secondo, diritti e doveri rispetto ai cittadini, per cui appunto sono previsti anche dei meccanismi sanzionatori qualora una persona non rispetti un percorso di reinserimento. E vengo al terzo punto, quello delle risorse. Allora, sostanzialmente noi quest'anno avremo 1,5 miliardi, a partire dall'anno prossimo, 2018, abbiamo 2 miliardi stabili. Tutti gli studi, non solo noi, dicono che per coprire la povertà assoluta bisogna arrivare a 7 miliardi, cioè ne mancano 5. Noi riteniamo che si debba arrivare attraverso un percorso pluriennale, un piano, con un incremento graduale di risorse. Quindi immaginiamo nei prossimi 3 anni si potrebbero incrementare le risorse di 1,6 miliardi all'anno, così da arrivare al 2020 ad aver aggiunto gli ulteriori 5 miliardi. E perché la progressione? Non solo perché se lei aggiunge 1,6 miliardi addizionale ogni anno, se vuole li trova, ma proprio perché è l'idea del piano che non è solo questo, bisogna dire adesso agli enti locali, alle associazioni, al volontariato: signori, si lavora su un'ottica pluriennale con questi obiettivi, con un graduale, cioè, per attrezzarsi con un processo di estensione nel tempo del campione sottoposto a verifiche delle modalità e dei processi, se posso tentare di dirla, meno che non la metta in imbarazzo, perché l'Italia è difforme nelle sue evidenze di come interviene coi programmi locali di sostegno al reddito e alle difficoltà economiche, lo fa con criteri e con effetti valutati, devo dire, non da grandi programmi nazionali di ricerca, ma da chi ci si mette all'università a farlo, totalmente diverso in Italia. E non è solo tra nord e sud, anche tra sud e sud, per essere chiari, almeno di mia cognizione. E quindi per questo c'è bisogno di guardiani scientifici, guardiani delle risorse, e scienziati sociali appassionati al di là dei partiti di appartenenza, se posso dire in tre sintesi quello che per me è il grave difetto di questo tipo di modalità di intervento, e che spiega perché abbiamo lasciato i poveri a salute col culo per terra mentre davamo decine di miliardi a però, chi aspetti, reddito ce l'aveva. Giannino, posso interromperla? Sì, deve. Lei fa bene, cioè mentre giudichiamo questo governo bisogna ricordarsi che una misura contro la povertà assoluta sì. è stata richiesta dall'inizio degli anni 90 e non è stata mai data. Invece i passi avanti sono venuti, ma, poco, ma, è che ha ma fatto non ce più. L'ho con questo governo, io ce l'ho col totale della politica italiana che ha fatto queste scelte. Guardi, io non ce l'ho, Renzi, non Renzi, si figuri. Penso che l'importanza del vostro movimento, cioè delle teste che avete messo insieme, sta nel fatto che mi eviti di dovermi occupare se è una bandierina di partito, perché altrimenti, ripeto, alla base della piramide sociale italiana noi lasciamo un meccanismo indegno di un paese civile. Infatti, la povertà è, scusa, una sfida istituzionale per tutti i cittadini, non è una bandiera di partito, esatto, o di sindacato, bravo. Non è un atto di caritatività. Tra l'altro io penso che i professori come Gori, che hanno messo tanto tempo a disposizione per questa causa, siano un esempio di come si costruisce coesione. Sì. Con un pochino più di cattiveria, e questo se posso, è perché caro Alberto, devi dare una mano anche tu, questo è, invece che insegnare solo il da bocca. Di produrli, va bene, redditi. Intanto grazie ai nostri ospiti, e adesso andiamo dopo l'introduzione con il nostro amico germanico Udo Gumpel. Della belva. Sigletta felliniana. Non c'è la sigletta felliniana. Ah, cantiamo noi, dai, fa niente. No, come la cantiamo ecco. noi? Non arriva. Niente. Abbiamo un futuro come vocalist. Abbiamo un futuro come vocalist, non credo. Diciamo, niente ci impedisce di fare come il piccolo bimbo olandese che metteva il ditino nella diga, nei buchi della diga. Naturalmente poi la diga ci trasporta e ci travolge. Allora, nella rubrichetta nostra consueta in cui utilizziamo una dichiarazione, un articolo di giornale, qualche cosa su cui riflettere per un grande tema, io volevo partire esattamente dal tema che Carlo Alberto sollevava all'inizio, del tutto casualmente avendo visto l'Economist, cioè ribadiamolo, cosa dice l'Economist nell'anniversario della scomunica? Era Mario 1517, affissione delle 95 tesi di Lutero sul Duomo di Wittenberg, quindi grande anniversario, mezzo millennio di riforma protestante, una bella storia. Chi ha vinto? Ha vinto il cardinal Bellarmino che condannava Galileo? Ha vinto il Concilio di Trento o hanno vinto Calvino e Lutero? Allora, il problema è che l'Economist sostiene una tesi, Mario. Io non so se sono d'accordo, perché siamo davvero d'accordo, Mario, con la tesi che ha vinto Lutero? Dipende, in alcune parti dell'Europa e del mondo sì, ma da noi ha vinto la Controriforma. Tu che dici, Mario? Eh beh sì, noi abbiamo, noi in Italia intendi dire. Sì, intendo in Italia. Sì, allora guarda. Anche qui dovrò essere sgradevole, more solito, cioè la nostra matrice cattolica ci forza, come dire, ad autoassolverci, e quindi questo mi pare che sia il problema. Vedi. Poi alcune forme di predicazione, come dire, che arrivano da un piccolo stato enclave all'interno della città di Roma, secondo me sono abbastanza diseducative nel discorso pubblico e privato di questo paese. Va bene. Però, allora, il problema è bello perché varia. Allora, la domanda è che poniamo a Udo Gumpel, che come al solito ci ha raggiunto, è: visto lo spunto dell'Economist, ma nella terna di Martin Lutero a distanza di 500 anni, e rispetto a come l'Economist legge il fatto che dice, ma in realtà Lutero ha vinto, noi siamo dell'idea che in questa parte dell'Europa abbia in realtà vinto il cardinal Bellarmino, cioè la Controriforma, il casuitismo gesuitico, il fatto che tutto sommato conta la fede più delle opere, quindi ci sarà sempre qualcuno che ti assolve e la tua redenzione non viene posta in condizioni, la colpa è sempre degli altri. Tanto basta rassegnarsi, poi si spera nella provvidenza. Ecco, ci metto dentro anche un po' di Manzoni ridotto in pillole, malgrado che Manzoni fosse uno di venature giansenista nella sua fine. Esatto. E malgrado il fatto che l'Economist un po' l'ironia sulla Germania come paese moralista, non come, se la risparmia. Come questo moral... Allora, sentiamo Udo Gumpo e buon anno intanto. Sì, buon anno, vi saluto da Parigi dove sono appena arrivato. I due anni del Bataclan. Sì, infatti io sono andato a trovare mia figlia che studia qui alla Sorbonne e ha un appartamento vicinissimo ad un posto molto tranquillo, infatti Bataclan si chiama, no, Bataclan, esatto. E sono due anni di Charlie Hebdo, va bene, esatto, grazie a Peter Bescapè che mi ha corretto la regia, perché ci sono delle cose automatiche in un giornalista che testimoniano solo che è un cretino, come in questo caso sono succede, io. Succede, era due anni fa Charlie Hebdo. No, Charlie Hebdo, esattamente. Allora, che ci dici della vittoria di Lutero? Ma ha vinto Lutero da voi o siete un po' ipocriti anche voi? Ma secondo me avete fatto un po' di fritto misto delle varie religioni. Io credo che ha vinto forse non Lutero ma il calvinismo, perché sapete, noi che siamo più vicini alla differenziazione di questi mondi, in realtà Lutero, che era di quello che tu dicevi, conta la fede non le opere, sì. Mentre la Chiesa Cattolica insegnava la Chiesa Cristiana, in quel momento contano le opere, però per loro erano le regole stabilite dalla Sacra Chiesa romana, non erano le opere. In pratica uno si comprava, come sappiamo, la benedizione, l'indulgenza. Si comprava, no? Quindi ha davvero vinto Calvino, chiedeva il ristoro delle subordinate. Ma non è così, Udo, ma nella storia della CSU non ha vinto Calvino per niente. I bavaresi non sono calvinisti, dai. Ma no, il Calvino ha vinto in realtà in questo senso è che dato che i luterani non sapevano, questo è interessante come discorso, spero che il nostro pubblico ci segua. No, te lo faccio apposta. Dato che il luterano, ma il calvinista pure lui, non della riforma, non sa, grazie alle cerimonie, alle regole imposte dalla Chiesa, se lui vive nella grazia divina o meno, c'è questa incertezza. Allora Calvino ebbe questa grande fortunata per in realtà il modo di vivere, idea che diceva, allora chi vive nella grazia divina è ricco in questa terra, ha successo negli affari, dunque, sì. Dunque allora vediamo un attimo chi sono coloro che hanno successo nella vita, i commercianti, e voi dovete sapere che in quel periodo c'era una bella dose di fortuna, metti che un mio antenato che aveva le navi, che mandava una nave di 6 mesi in viaggio, e veramente se non c'era la mano divina di protezione quella nave non tornava, dunque se la nave tornava e rendeva ricco questo antenato, allora era un benedetto da Dio, era uno che aveva la benedizione, e allora uno tentava di capire quali erano i segni della vita di tutti i giorni per lo stato di grazia nella quale uno viveva, ma guarda caso erano naturalmente i commercianti, i fabbricanti, gli industriali, e dunque era una specie di giustificazione ex post per il capitalismo moderno di nascere. Dunque, non eri solo ricco, eri anche benedetto da Dio. Dunque, è chiaro che questo ha portato anche altre regole. Voi non dovete pensare che questi qua, vivendo nella grazia divina, adesso semplifico molto, non mi criticheranno, spero, i tanti teologi, ma vivendo nella divina grazia, è chiaro che loro avevano un obbligo fortissimo di fare il bene della società, dunque loro io, davvero io dovevano ho dare capito. 10%, ma ci stai parlando. Era uno stimolo enorme a sviluppare la società, capito? Perché non era il principe. Udo, aspetta un secondo, ci prendi per ignorantoni. Guarda che Thomas Mann, però, cioè la crisi dei valori che stai descrivendo fino alla decadenza assoluta nell'intimo, nella fibra delle convinzioni personali a Lubecca ad Amburgo, cioè la grandezza di Thomas Mann, per capirci, l'abbiamo letto anche noi. Quando Weber arriva e dice a questo primo aspetto si coniuga un altro aspetto, noi abbiamo la forza di avere retto un modello in cui political beruf, perché la pubblica amministrazione diventa un dovere terza indipendente, manco per il cappero, perché poi l'impero guglielmino, il nazismo, entrambe le cose se le mettono sotto i piedi, cioè, perdonami, il meglio del meglio della borghesia calvinista che dice io sono ricco, non me ne vergogno, do una mano alla società perché c'è la mano di Dio che mi premia nella mia grazia, ma insieme al mio successo, alla fine non è che ha opposto una grande resistenza né al fatto che lo Stato decideva lui, né al fatto che lo Stato diventava una belva. Infatti, perché c'erano, infatti non è che adesso questa... Guarda, l'avvento del nazismo effettivamente ha sconvolto queste vecchie convinzioni e gli equilibri. L'unica cosa che, per esempio, i grandi commercianti di Amburgo, che poi peraltro la storia Budenbrock, devo dire, e per molti versi ricalca proprio la mia storia personale, perché la mia famiglia era una famiglia della Lega Anseatica, lo so, del commerciante. Apposta, tu sei un mezzo leghista, anni. Bravo, sì. Erano comunque da quasi 600 anni erano commercianti e sindaci di queste città. Dunque la storia effettivamente ha mostrato che questa convinzione del comportarsi bene, di essere timorati di Dio, non ha funzionato contro il nazismo, assolutamente no. C'è stata una, casomai al massimo, una resistenza passiva. Ad Amburgo è successo che, per esempio, c'erano degli armatori ebrei, allora gli altri armatori, tra i quali anche mio nonno, hanno poi preso in parte in affidamento le navi loro, la proprietà, per restituirli con il capitale, interessi dopo la guerra, e che peraltro uno di questi, Erich Blumenfeld, era poi anche diventato sindaco di Amburgo. Dunque la storia c'è, però questo non ha impedito ad Amburgo, che è un caposaldo della borghesia liberale, e di essere anche un posto dove furono poi educati i nazisti come Gerhard Zomma. Però anche un po' i socialisti, fammelo dire. Udo, scusami. L'Economist dice chiaramente questo, dice che il luteranismo è stata la cura del socialismo. Caro mio, stavamo parlando, e anche a dimostrazione che io non sono il... e difensore della Germania, ma sono un giornalista che vede la verità, esatto, per quello che io riesco a vedere. Dunque io conosco benissimo questi lati oscurissimi del mio paese, che mi ha dato i natali, e conosco naturalmente Amburgo è la città dove nasce la socialdemocrazia. È la città che manda il primo deputato socialdemocratico, se non vado errato, nel 1864 eleggono già dei deputati in una Europa dove è la vicina lancia della socialdemocrazia alle idee di Karl Marx e Friedrich Engels era una cosa orribile poi per loro. In più Amburgo, a parte di piccoli periodi diversi, è sempre stato governato da 150 anni dalla socialdemocrazia hamburghese, però da una socialdemocrazia particolare, con grande attenzione all'industria e ai diritti della gente. Però io Udo, io lo sapevo, anche come il nostro grande cancelliere Helmut Schmidt, levarsi il cappello, lui è un grande esempio della socialdemocrazia. Sono d'accordissimo. Io lo sapevo, che senza dire a Udo che avremmo parlato di questi temi, quindi prendendolo di sorpresa e mentre era in metropolitana a Parigi, avremmo restituito in 10 minuti ai nostri ascoltatori degli accenti su come conta e come il tema sollevato dall'Economist, cioè i diversi aspetti del cattolicesimo, del cristianesimo, Lutero, Calvino, eccetera. E però bisogna saperli leggere nell'evoluzione dei diversi sistemi e paesi, nelle culture ancora oggi dominanti, con la critica della libertà, che Udo Gumpel, come vedete, vi ha dimostrato anche rispetto alla stessa Germania. Da noi però ha vinto Bellarmino. Da loro della cultura del favore personale, del casuistica. Questo è. Grazie, Udo, e torniamo tra un minuto. L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ed eccoci, tornate diretta, cari compari dei conti della belva, oltre a me Carlo Alberto, Mario ci sei sempre? Sì, certo. Ma tu sei luterano calvinista o sei in realtà un agente della Controriforma perché ti godi alla tortura? Perché sei un po' uno che ha la fama di godere la tortura. No, io mi sono sempre appassionato al pensiero protestante in senso lato, dai tempi del liceo, per cui Sicuramente quello che ha detto Udo è molto interessante, diciamo la ricerca della grazia nell'intrapresa è suggestivo, ma io amo molto il principio di responsabilità individuale che è un altro caposaldo del pensiero protestante. Diciamo questo, se dovessi scegliere tra cattolicesimo e protestantesimo saprei cosa scegliere. Direi anch'io, anche perché c'è una differenza fondamentale. Per esempio i banchieri cattolici la grazia la ipotizzano solo nel caso, eventualmente molto raro statisticamente, di una condanna penale. Già è raro, ecco appunto quella è l'unica grazia che hanno in testa. No, lo dico perché, guarda, io ve lo dico, cari ascoltatori, se finisce il ristoro pubblico anche i quattro fondi immobiliari piazzati da Poste, mi metto veramente a ululare in aramaico. Oscar, dopo tocca alle COP. Il ristoro c'è sempre stato, dai, è implicito il ristoro lì dentro. Esatto. Ex ante. Sul ristoro, ma il ristoro. Ristorati e ristoratori. Esatto, un paese di ristorati e ristoratori. Va bene. Allora, ehi, come hai passato inizio dell'anno in fabbrica, Renato Cifarelli? Buon anno. Buongiorno, buon anno. Sentite, però mi fate fare la figuraccia oggi. Perché? Prima parlate dei massimi sistemi. Sì. Del calvinismo, del cristianesimo, e poi chiamate me. Chiamiamo te, perché poi massimi sistemi sì, ma le fabbriche devono andare avanti. Sei un adepto di Bruce Springsteen, cioè praticamente l'approssimazione più elevata alla divinità che abbiamo nell'epoca contemporanea. Vabbè, allora, di cosa ci parli oggi? No, oggi, visto che siamo all'inizio dell'anno, è vero che i budget sono stati fatti un po' di tempo fa, però fra una decina di giorni arriva Trump. E siccome vedo un sacco di gente che è lì che è praticamente orgasmica per questo nuovo protezionismo di Trump, vorrei fargli notare, l'abbiamo già fatto in passato, ma ripetita Juvent, dicono, che buona parte delle esportazioni italiane ha come destinazione finale gli Stati Uniti, perché anche moltissimo di quello che noi esportiamo in Germania poi va come componenti a finire negli Stati Uniti. Quindi se gli Stati Uniti diventano così tanto poi protezionistici, a farne le spese alla fine indovina un po' chi è, non sicuramente gli operai americani, tanto per intenderci. E questo in una situazione in cui invece potremmo essere abbastanza facilitati, perché con un dollaro così l'Europa è abbastanza competitiva. Ma il vero problema del 2017, secondo me, per l'Europa è cosa ne vogliamo fare dell'Europa. E noi italiani ci stiamo mettendo su il carico da 11, come si dice. Ma nel senso che noi stiamo dimenticando il fatto che il QI andrà alla fine e abbiamo utilizzato lo scudo semplicemente per non affrontare i problemi, a cominciare da quello bancario. Quindi io penso che non è che siamo. Questa è la stessa cosa che noi abbiamo fatto quando c'è stato l'euro. Esatto. Cioè abbiamo detto, che bello. La colpa poi alla fine. Cioè, tanto qualcuno pagherà, no? Il problema è che più passa il tempo. E se noi non siamo abbastanza vecchi da avere poco tempo davanti, e più c'è la possibilità che quelli che pagheranno siamo noi. Quello che c'è dubbio. Però la questione fondamentale ai miei occhi è se a marzo la Le Pen riesce a battere Fillon. Nei sondaggi i due al primo turno non sono molto distanti. Il problema è se nel secondo turno il poco elettorato socialista rimasto, la parte che voterà altri candidati indipendenti al primo turno, riesce a convergere su Fillon. E se Fillon è in grado di svolgere questo ruolo meglio di quanto lo avrebbe svolto il sindaco di Bordeaux. Io per esempio sostengo di sì, sarebbe stato peggio. È vero che Fillon è più cattolico integralista, però da questo punto di vista ha più chance di apparire come un vincitore. Non lo so, io so che se vince la Le Pen cambia tutto, questa è la mia tesi, può essere che io mi sbagli, non so come la pensi tu. Ma il problema di quest'anno, per chi fa il mio mestiere, visto che poi vengo appunto interpellato per quello, quindi chi fa l'imprenditore, che cerca di guardare cosa succederà, è che se in passato, negli ultimi anni, avevamo una vista, diciamo, annebbiata, quest'anno abbiamo una situazione, cioè io mi preparo a essere sull'otto volante quest'anno, perché fra quello che succederà con le valute, in base a come si comporta Trump, in base a cui cosa succederà con tutte le varie elezioni che in vari questi vari momenti. Sì, sì, Francia, Olanda, quella italiana manco la prevediamo, giustamente, è già rinviata al 2018. Quella italiana, purtroppo sappiamo che quella italiana è guidata da quando andranno a prendere la pensione, inutile che ci giriamo attorno. Ah, insomma, proprio. Cioè, stai facendo l'imprenditore proprio con il grasso. Ma, tu delocalizzi in America come fa la Ford? Fammi capire. No, noi quest'anno abbiamo un progetto molto importante che comprende appunto gli Stati Uniti, che deriva dall'operazione straordinaria che abbiamo fatto, e in questo momento non c'è un progetto di delocalizzazione. È evidente che se Trump fa un ragionamento di quel genere molto forte, alcune grandi aziende potrebbero pensare a cominciare a trasferire là una parte della propria produzione. Io ripeto, non sottovalutate i 20 punti in meno di aliquota IRES, quelli arrivano, e quindi io penso che in realtà non solo ci sarà una bella quota di utili parcheggiati all'estero, multinazionali americane che rimpatriano e quindi producono investimenti a pioggia sul mercato domestico, però molti ritengono che quello che sta avvenendo, Ford, vedremo General Motors e così via, dipenda più che altro dalle minacce dirette. Io il problema è che penso che dipendi dalla convenienza invece del conto economico. Esatto, io penso che sia un tema fiscale e non di protezione, sinceramente. Se tu pensi solo ad Apple, quanti soldi ha sparsi per il mondo che non ha fatto rientrare, perché ci dovrebbe pagare le tasse, perché vabbè. La cosa è un po' complicata, però noi lo sappiamo, ma magari la gente che ci ascolta non lo sa. In America fino a che non fanno rimpatriare i soldi che hanno guadagnato all'estero, tanto per intenderci le famose multinazionali che hanno la sede in Irlanda, dove non hanno pagato quasi tasse, finché non li fai rientrare non paghi le tasse. Se Trump fa una specie di condono o un'aliquota alleggerita per cui riesce a far rientrare e spinge ad investire negli Stati Uniti. Fa bene a farlo, mentre noi in Europa facciamo il contrario, cioè li espelliamo perché vogliamo tassarli. Alziamo le tasse per aiutare le persone, con tutto rispetto, povere. Allora, io purtroppo faccio l'imprenditore e preferirei che si cercasse di aiutare gli imprenditori a creare dei posti di lavoro piuttosto che dare dei soldi alla gente a stare a casa. Se diventano 7 miliardi siamo sempre lì, no, non sono pochi. Il discorso è sempre il solito, ci sarà anche un po' di gente che magari preferisce stare a casa a grattarsi e a prendere un po' di soldi. E su questo l'hai sentito che ci battiamo per i controlli, però è anche vero che il mucchio di gente non è così. Grazie Nato Cifarelli, Mario Simonelli, con Roberto Carnevale della Fè, continua 0224, appuntamento con me e il ritorno di Alessandro Milan lunedì mattina, prima con la sua rassegna e poi in attenti a noi due.